In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, dimandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dica uno va ed egli va e un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Ecco, leggendo oggi questo brano, mi è venuto in mente come tante volte le persone che noi etichettiamo non credenti, che etichettiamo come pagane, ci danno veramente i punti, ossia il loro comportamento, il loro modo di relazionarsi, il loro modo di amare è di gran lunga superiore a quello di tanti noi credenti. Oggi abbiamo questa figura di centurione. Quest'uomo, questo centurione è veramente lodato da Gesù. Pensate che bello sentirsi dire queste parole. Gesù lo ammira e volgendosi alla folla dice: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Pensate che grande elogio ha ricevuto quest'uomo. Ed è talmente grande questo elogio e talmente è rimasto impresso nella mente di Gesù che gli apostoli e la Chiesa ha introdotto proprio questa espressione di questo centurione. Proprio queste parole che il centurione ha pronunciato, prima di ricevere l'Eucaristia, noi tutti le pronunciamo. Pensate, questo centurione è rimasto famoso nella storia della Chiesa e anche nella vita di ciascuno di noi. Perché? Perché noi ripetiamo esattamente le parole di questo centurione proprio prima di ricevere l'Eucaristia. Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola ed io e il mio servo sarà guarito. Ecco, queste parole del centurione denotano una grande umiltà, una grande fede, una grande fiducia, confidenza nel Signore e anche denotano proprio come quest'uomo non si reputi degno nemmeno di essere visitato. Ma appunto è talmente umile che non vuole, che non si reputa all'altezza di poter ricevere il Signore nella propria casa. Allora, oggi su che cosa vogliamo riflettere? Vogliamo considerare tutte le persone che il Signore ha messo sul nostro cammino, che noi abbiamo etichettato come non credenti, e che tuttavia ci danno veramente delle lezioni di vita. E sono tante queste persone. Allora vorrei che oggi noi aprissimo meglio gli occhi, aprissimo gli occhi a vedere tutti quegli esempi che il Signore ci mette sul nostro cammino, di persone integerrime, persone che amano, persone che ci insegnano l'arte di amare pur non avendo una fede esplicita in Gesù. E a questo riguardo vorrei condividere con voi l'esperienza che ho avuto di una coppia nel mio palazzo. Sono una coppia di anziani, hanno 50 anni di matrimonio alle spalle, ma sono molto carini e affezionati. L'uno vuole veramente il bene dell'altro e 50 anni di matrimonio lo dimostrano. E quest'anno la signora è rimasta tra la vita e la morte per quasi tutto l'anno e il marito con perseveranza e costanza è andato sempre a trovarla ogni giorno e con una dedizione incredibile ha fatto proprio tantissime cose per questa donna. E veramente mi ha dato una lezione incredibile di vita. Io ho chiesto a questo signore, ma come avete fatto a essere fedeli per 50 anni di matrimonio? E lui, sorridendo, mi ha detto, abbiamo fatto questo patto. Quando ci siamo sposati, abbiamo detto, io non cambierò te e tu non cambierai me, ma ognuno di noi cercherà di cambiare se stesso. Ma che bella lezione! Veramente l'uno non ha mai incolpato l'altro, ma ognuno si è preso sempre la propria responsabilità e ha cercato di lavorare sui propri difetti. Prendiamo esempio da queste persone, ringraziamo Dio per averle messe sul nostro cammino. Buona giornata.